Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio parliamo di piste ciclabili, o meglio di itinerari ciclabili. Ne abbiamo parlato qualche mese fa a proposito della Treviso Ostiglia, perché era stato inaugurato in provincia di Padova il tratto appunto padovano, nella zona dell'Alta Padovana era stato proprio attrezzato come percorso ciclabile. Abbiamo oggi come ospite Giacomo Gazzin, vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Padova, ma non l'abbiamo invitato per questo oggi, ma più che altro per la sua esperienza proprio nel settore delle piste ciclabili. Intanto benvenuto nella trasmissione. Grazie. Ecco. In particolar modo so che sta seguendo la parte della ciclovia, chiamiamola così, o itinerario ciclabile, esatto, del Brenta, nella parte nord di Padova. Sì. Che senso hanno questi itinerari? Ce ne sono altri in regione, mi pare, su cui si sta lavorando, che attraversano anche varie province. Che senso hanno questi itinerari? Beh, il senso di questi itinerari è cercare di sviluppare un turismo, diciamo, nel territorio, un turismo legato essenzialmente all'utilizzo della bicicletta, perché è un turismo di mobilità lenta, come si usa chiamare, in un territorio che, diciamo, presenta delle valenze sia ambientali che culturali di notevole interesse. Nel Veneto gli itinerari principali si sviluppano lungo il corso del fiume Adige e naturalmente in questo caso si esce anche dal territorio veneto per andare partendo da nord del Trentino Alto Adige e attraversa tutta la regione per arrivare fino al Mar Adriatico. Certo. Questo, diciamo, è l'itinerario principale a livello regionale, sempre sviluppato lungo corsi d'acqua, perché questi sono itinerari principalmente sviluppati quasi esclusivamente lungo i corsi d'acqua, che presentano delle arginature tali che permettono l'inserimento di queste infrastrutture. In effetti spesso questi itinerari, almeno dalle nostre parti, perché magari abbiamo l'esempio di Nord Europa, vediamo questi itinerari, sì, che attraversano boschi e campagne, da noi seguono un po' molto gli argini e i fiumi, mi, esatto, sembra. Esatto, seguono gli argini e i fiumi, che sono comunque territori interessanti, naturalmente dipende dal corso d'acqua. Un corso d'acqua come l'Adige ha un interesse anche ambientale importante, soprattutto nella sua parte nord, ma anche nella sua parte centrale e anche sud, perché attraversa soprattutto dei territori agricoli interessanti, oltre ad attraversare anche naturalmente delle città. Qua in provincia di Padova forse quello più interessante è l'itinerario del Brenta, che taglia trasversalmente da nord-ovest a sud-est quello che è il territorio della provincia stessa, insomma. Quindi da Padova verso la zona di Bassano per arrivare poi alla Valle del Brenta, esatto, o si ferma prima? Allora, attualmente quello che sta partendo qua in provincia è l'itinerario che va da Padova, essenzialmente da Ponte Vigo d'Arzane, per cui proprio all'ingresso di Padova, e si sviluppa ragionando verso nord fino quasi al confine della provincia. Nella provincia di Vicenza attualmente stanno sviluppando questa idea progettuale, ma sono un po' più indietro rispetto alla provincia di Padova. Andando a Trento invece esiste già, e anche in alcune parti, comunque la parte alta della provincia di Vicenza, esiste già l'itinerario, per cui una volta sviluppato si può arrivare fino alle sorgenti sul lago di Caldonazzo, fino al mare. Naturalmente c'è una certa sinergia a livello regionale che coordina la regione, ogni provincia si è attivata separatamente, utilizzando anche fondi a volte comunitari, a volte fondi privati. Cosa significa progettare una pista ciclabile? Cioè, quali sono le problematiche? Come forse si utilizzano gli argini proprio per facilità, sì, o perché... Allora, l'utilizzo del... Per esempio la Treviso Ostiglia era un percorso, un caso, che era già fatto. Sì, è un caso particolare la Treviso Ostiglia, è un'infrastruttura realizzata nel secolo scorso, tra la prima e la seconda guerra mondiale, ed era una ferrovia militare. È l'unico caso, anche questo molto interessante, perché attraversa proprio diagonalmente nell'altro senso, cioè da Treviso verso Ostiglia, per cui da nord-est verso sud-ovest. Nel tutti gli altri casi, questo è un caso particolare che si ripresenta in talune situazioni nel Bellunese e in altre situazioni in cui ci siano ferrovie dismesse, certo, ce ne sono diverse a livello di, della regione Veneto e anche in altre regioni. L'utilizzo dei corsi d'acqua è prioritario essenzialmente perché sono infrastrutture già esistenti, richiedono investimenti relativamente bassi, perché non richiedono grossi spostamenti di terra, scavi eccetera, ma richiedono essenzialmente una sistemazione di quello che è la sommità arginale. E per cui sono strutture già esistenti che vanno sistemate, messe in sicurezza, adeguate a quella che è la viabilità ciclabile, ed è un intervento molto produttivo, diciamo, dal punto di vista turistico, con bassi costi, certo. Detto in parole povere. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Credo negli angeli, ma frequento l'inferno. Colgo occasioni così, senza necessità. Sono la Venere che risorge dal niente. Non conosco più la mia vera identità. Leggo gli oroscopi ma aspiro all'eterno. Fuochi in estate per noi, nuove ritualità. Suona un'armonica ma nessuno la sente, e già piove sull'età della vanità. E se il giornale ci dà l'idea del presente, l'arte e la follia, chi le cullerà? Portami a bere oltre le stelle, spiegami il senso, dimmi la verità, profeta. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di itinerari ciclabili e lo stiamo facendo con Giacomo Gazzin, esperto proprio nella progettazione di questo tipo di itinerari. Parlavamo prima del nord dell'Europa, dove ci sono questi itinerari anche lunghissimi e anche dove forse c'è una maggiore abitudine al turismo ciclabile. Sì. Nelle nostre zone, visto che cominciamo un po' in qualche modo a proporre questo tipo di itinerari, c'è anche una mentalità da parte di chi vive nel territorio a poter ricevere, per esempio, dei servizi lungo questi itinerari? Ma si sta sviluppando, è un qualcosa che nel divenire. Abbiamo avuto ad esempio sia lungo la Treviso Ostiglia che anche lungo gli itinerari già realizzati, quali quello del Muson dei Sassi, e questo è molto interessante perché prosegue dopo nel Trevigiano con un intervento già realizzato. Esistono già interessi dal punto di vista della comunità locali, sia agricoltori sia anche semplici cittadini che stanno cercando di sviluppare degli interventi legati alla ricettività o comunque posti di ristoro. Quindi un agriturismo o un posto di ristoro più o meno lungo questa pista può diventare un punto dove appunto si può soggiornare, fare tappa o anche una tappa per la città di un solo giorno, tipo partire, si parte dalla città, si arriva e si ritorna, cose di questo tipo, seguendo su un percorso già attrezzato. Esatto, se abbiamo questo duplice utilizzo, sia la gita breve di un giorno, che può essere legata al fine settimana, sia gite più lunghe, nel caso di itinerari più lunghi, quali potranno essere, una volta completati, l'Ostiglia, il Muson dei Sassi e il Brenta stesso, se ragioniamo nel sistema dell'Alta Padovana che va verso o il Vicentino o il Trevigiano. Senti, un'ultima domanda, perché quando abbiamo parlato dell'Ostiglia ci si era soffermati anche sulla questione della base di questa pista ciclabile. In quel caso si era fatta la scelta in gran parte dell'asfaltatura, però so che c'è anche qualche polemica su questo. Per che motivo? Ma diciamo, l'asfalto ha dei pregi legati essenzialmente alla percorribilità della bicicletta, cioè con l'asfalto qualsiasi tipo di bicicletta può transitare senza grossi problemi. Quale può essere l'aspetto negativo? Per chi, parliamo di itinerari ciclabili, per cui vengono percorsi anche da persone a piedi, in quel caso si può avere una elasticità che magari non va proprio bene per quanto riguarda il pedone, ma essenzialmente il grosso pregio è legato al fatto che l'asfalto ha un basso indice di manutenzione, richiede anche questo manutenzione, però è un fondo che ben si adatta a qualsiasi situazione, non richiede grossa manutenzione e si adatta essenzialmente a quasi tutti i tipi di mezzi velocipedi e anche mediamente le persone a piedi, insomma. Anche se forse chi va a fare una scampagnata in bicicletta lo fa magari per andare via dall'asfalto e finisce si ritrova l'asfalto, sì. Però forse fa anche meno fatica e comunque vediamo appunto esatto. Che poi siamo in un ambito molto ombreggiato, per cui certo. Tendenzialmente si riscalda anche relativamente, a parte quei tratti che sono scoperti. Ecco, oltre a quella del Brenta, prossime piste che o itinerari che sono in progettazione, di cui hai notizia? Nel Veneto, quello del Brenta è uno dei principali, ma nella litoranea, provincia, esatto, provincia di Rovigo e Venezia stanno sviluppando la litoranea che va verso l'est, l'Europa dell'est. Sono interventi coordinati, finanziati con fondi comunitari, anche quello è molto interessante perché segue tutta la linea litoranea, seguendo in parte i corsi d'acqua, in parte anche i canali o comunque infrastrutture nell'ambito agricolo. Bene, grazie. Grazie a tutti voi invece. Passiamo adesso ad alcune notizie. Veneto Agricoltura ha predisposto nella riserva naturale di Bosco Nordio a Chioggia un nuovo tabellone didattico interattivo che descrive le principali specie di chirotteri, ovvero i pipistrelli, presenti nella riserva. Attraverso schede, giochi, suoni e ricostruzioni ambientali, i visitatori potranno conoscere alcuni pipistrelli tipicamente legati agli ambienti forestali. L'iniziativa è finanziata dalla Regione Veneta e completa un progetto di ricerca sui chirotteri forestali, i mammiferi più numerosi dopo i roditori. Venerdì 14 giugno alle ore 9:15 presso l'Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari in via San Gaetano 74, Atene, si terrà il convegno Formaggi stagionati, nuove strategie per un miglioramento della qualità e per la valorizzazione degli aspetti nutrizionali. Verranno presentati i risultati di BioLatte, il progetto dedicato alle biotecnologie sostenibili per il miglioramento dei prodotti lattiero-caseari. Si parlerà inoltre di tecnologie innovative per il controllo delle fermentazioni tardive nei formaggi a medio-lunga stagionatura. Il convegno è gratuito, previa preadesione all'indirizzo mail convegno.tiene@gmail.com. Viene accolta come una cattiva notizia per il Made in Italy agroalimentare e per la tutela dei consumatori la retromarcia della Commissione europea sulla norma che vieta l'uso di bottiglie senza etichette nelle oliere anonime nei locali pubblici. Suona infatti come una sconfitta per tutti i paesi come l'Italia che da sempre portano avanti una dura battaglia contro le frodi. Ci stupisce ancora di più che questo passo indietro avvenga subito prima dell'approvazione definitiva, afferma la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, che rivela come ogni anno siano sottratti all'agroalimentare Made in Italy 1,1 miliardi di euro. Una bottiglia d'olio extravergine su 6 in Italia finisce sui tavoli di trattorie, ristoranti e bar, ed è necessario, ribadisce la CIA, chiarirne l'origine, per garantire trasparenza ai cittadini e per tutelare i produttori. Un 18,7% di famiglie acquirenti in Italia e un significativo più 15% di incremento dell'export, più 39,7% nell'ultimo triennio, è il bilancio 2012 dal segno positivo presentato dal presidente del consorzio di tutela formaggio Asiago DOP, Roberto Gasparini. Nel 2012 sono state prodotte quasi 1.700.000 forme di formaggio Asiago DOP. Sul fronte dei consumi a livello nazionale, l'Asiago DOP conferma il crescente apprezzamento da parte dei consumatori. Se si considera il calo medio del 3% dei consumi alimentari in Italia, va evidenziato come ancora una volta il mercato abbia premiato gli sforzi fatti per il miglioramento continuo della qualità, ha affermato il presidente Gasparini, che ora indica la via dell'export come il prossimo passo per la crescita del consorzio. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con la rubrica Il Quadrifoglio. Vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.